Basic Italian, 7th edition, Chapter 7. A. Elaborate on each statement in the manner indicated in the model in your manual. Listen first as the model is done for you. Di solito, mamma fa la spesa al supermercato. Ieri, come al solito, ha fatto la spesa al supermercato. Now it's your turn. 1. Di solito, Luisa e Isabella studiano in biblioteca. 2. Ieri, come al solito, hanno studiato in biblioteca. 2. Di solito, papà legge il giornale. Ieri, come al solito, ha letto il giornale. 3. Di solito, Adriana viene con Franco. Ieri, come al solito, è venuta con Franco. 4. Di solito Patrizia e Luca vanno al cinema insieme. Ieri, come al solito, sono andati al cinema insieme. 5. Di solito gli Andreotti giocano a carte la domenica. Ieri, come al solito, hanno giocato a carte. 6. Di solito Andrea dorme fino a tardi. Ieri, come al solito, Andrea ha dormito fino a tardi. 7. Di solito Carlo e Giuliano mangiano al ristorante. Ieri, come al solito, hanno mangiato al ristorante. 8. Di solito il signor Borghini arriva dopo le 9. Ieri, come al solito, è arrivato dopo le 9. 9. Di solito Isabella esce con Paolo. Ieri, come al solito, è uscita con Paolo. 10. Di solito la nonna resta a casa tutto il giorno. Ieri, come al solito, è restata a casa tutto il giorno. 2. Indicate that what the speaker declares to be a typical activity on a particular day also occurred yesterday. Listen to the model. Papà va in ufficio il venerdì. Anche ieri è andato in ufficio. Let's start. 1. I ragazzi vanno a vedere un film il sabato. Anche ieri sono andati a vedere un film. 2. Carlo studia in biblioteca fino a tardi il mercoledì. Anche ieri ha studiato in biblioteca fino a tardi. 3. Laura va a comprare il pesce il venerdì. Anche Anche ieri è andata a comprare il pesce. 4. Gli zii vengono a vederci la domenica. 5. Di lunedì Tina prende l'autobus per andare all'università. Anche ieri ha preso l'autobus. 6. Di domenica dormiamo fino a tardi. Anche ieri abbiamo dormito fino a tardi. 7. Di sabato telefoniamo ai nonni. Anche ieri abbiamo telefonato ai nonni. 8. Il venerdì finite il lavoro e ritornate a casa. Anche ieri avete finito il lavoro e siete ritornati a casa. 9. La domenica guardiamo un film alla televisione. Anche ieri abbiamo guardato un film alla televisione. 10. Di domenica pomeriggio i bambini vanno alla gelateria per prendere un gelato. Anche ieri sono andati alla gelateria per prendere un gelato. 6. Some people arrive late for everything. Indicate to the following speakers that what they are interested in is already over. Listen to the model. A che punto è il film? Il film è ormai finito. Siete arrivati troppo tardi. It's your turn now. 1. A che punto è la lezione? La lezione è ormai finita. Siete arrivati troppo tardi. Due. A che punto è la partita? La partita è ormai finita. Siete arrivati troppo tardi. Tre. A che punto è lo spettacolo? Lo spettacolo è ormai finito. Siete arrivati troppo tardi. 4. A che punto è il programma? Il programma è ormai finito. Siete arrivati troppo tardi. 5. A che punto sono le partite di tennis? Le partite sono ormai finite. Siete arrivati troppo tardi. 6. A che punto è la cena? La cena è ormai finita. Siete arrivati troppo tardi. 7. A che punto è il concerto? Il concerto è ormai finito. Siete arrivati troppo tardi. 8. A che punto è il lavoro? 'Il lavoro è ormai finito. Siete arrivati troppo tardi. 9. A che punto è la riunione? 'La riunione è ormai finita. Siete arrivati troppo tardi. 10. A che ora è la festa? 'La festa è ormai finita. Siete arrivati troppo tardi. 'D. Now here's another group of people who are late for everything. Tell them that what they are interested in has already happened. Listen to the model. A che ora parte il treno per Viareggio? 'Mi dispiace, ma il treno è già partito. Now it's your turn. 1. A che ora incomincia lo spettacolo? 'Mi dispiace, ma lo spettacolo è già incominciato. 2. A che ora parla il presidente? 'Mi dispiace, ma il presidente è già parlato. 3. A che ora chiude il negozio? 'Mi dispiace, ma il negozio è già chiuso. 4. A che ora va all'università Antonio? 'Mi dispiace, ma Antonio è già andato all'università. 5. A che ora mangiate? 'Mi dispiace, ma abbiamo già mangiato. 6. A che ora esce per andare in ufficio il signor Andreotti? 'Mi dispiace, ma il signor Andreotti è già uscito. 7. A che ora viene Teresa per i libri? 'Mi dispiace, ma Teresa è già venuta. 8. A che ora è in ufficio Guido? 'Mi dispiace, ma Guido è già stato in ufficio. 'E. Answer the impatient speaker and assure him that the event he is so anxious about has just happened. Listen to the model. Ma quando va via Andrea? 'Andrea è appena andato via. Now it's your turn. 1. Ma quando finisce questo programma noioso? 'Il programma è appena finito. 2. Ma quando arriva questo treno? 'Il treno è appena arrivato. 3. Ma quando aprono questo negozio? 'L'hanno appena aperto. 4. Ma quando finisce di parlare il professor Adriani? 'Il professor Adriani ha appena finito di parlare. 5. Ma quando finite di mangiare? Abbiamo appena finito di mangiare. 6. Ma quando ritorna Carla? 7. Carla è appena ritornata. 7. Ma quando compri il vino? L'ho appena comprato. 8. Ma quando inviti gli amici a cena? Li ho appena invitati a cena. F. You have been so busy lately that you have not had time to get everything done. Listen to the model. Hai pulito la camera? No, non l'ho ancora pulita. Non ho avuto tempo. Now it's your turn. 1. Hai preparato l'insalata? No, non l'ho ancora preparata. Non ho avuto tempo. Due. Hai comprato il caffè e il latte? No, non li ho ancora comprati. Non ho avuto tempo. Tre. Hai invitato mia madre? No, non l'ho ancora invitata. Non ho avuto tempo. Quattro. Hai preso le fotografie dal fotografo? No, non le ho ancora prese. Non ho avuto tempo. 5. Hai pagato il fornaio? No, non l'ho ancora pagato. Non ho avuto tempo. 6. Hai portato i pantaloni in lavanderia? No, non li ho ancora portati. Non ho avuto tempo. 7. Hai scritto la lettera alla banca? No, non l'ho ancora scritta. Non ho avuto tempo. 8. Hai aperto le finestre? No, non le ho ancora aperte. Non ho avuto tempo. 9. The person you share your living quarters with can never find anything. Patiently indicate where you have put the items in question. Listen to the model. Ma dove hai messo le carte da gioco? Le ho messe sulla scrivania. Now it's your turn. Look in your manual for the necessary prompts. 1. Ma dove hai messo il dizionario? L'ho messo nello studio. 2. Ma dove hai messo i passaporti? Li ho messi in camera. 3. Ma dove hai messo i bignè? Li ho messi nel frigorifero. 4. Ma dove hai messo lo zucchero? L'ho messo in tavola. 5. Ma dove hai messo le paste? Le ho messe in cucina. 6. Ma dove hai messo il giornale? L'ho messo sul tavolo. 7. Ma dove hai messo le camicie? Le ho messe nell'armadio. 8. Ma dove hai messo le chiavi? Le ho messe in borsa. 9. Ma dove hai messo le fotografie? Le ho messe nell'album. 10. Ma dove hai messo i biglietti per il teatro? Li ho messi in tasca. H. Your roommate is currently having a hard time coping with your voracious appetite. Answer the questions as indicated in the model. Listen first as the model is done for you. Dov'è il pane? Il pane? L'ho mangiato tutto. Now it's your turn. 1. Dov'è il gelato al cioccolato? Il gelato? L'ho mangiato tutto. 2. Dove sono le brioche? Le brioche? Le ho mangiate tutte. 3. Dove sono le banane? Le banane? Le ho mangiate tutte. 4. Dove sono i cannoli? I cannoli? Li ho mangiati tutti. 5. Dove sono le fragole? Le fragole? Le ho mangiate tutte. 6. Dov'è la ricotta? La ricotta? L'ho mangiata tutta. 7. Dov'è la pizza? La pizza? L'ho mangiata tutta. 8. Dov'è il prosciutto? Il prosciutto? L'ho mangiato tutto. I. One of the problems of living with someone is that you not only can never find anything, but also that you keep hearing an echo to everything you say. This time, you play the echo. Every time your friend makes a comment, reiterate the statement in the manner of the model in your manual. Come sono freschi questi bignè? Davvero, sono freschissimi. Now it's your turn. 1. Com'è lungo questo programma? Davvero, è lunghissimo. 2. Com'è buono questo gelato. Davvero, è buonissimo. 3. Com'è bello questo film. Davvero, è bellissimo. 4. Com'è scritto male questo giornale? Davvero, è scritto malissimo. 5. Come sono brutte queste foto? Davvero, sono bruttissime. 6. Com'è noioso questo lavoro. Davvero, è noiosissimo. 7. Com'è calda questa minestra? Davvero, è caldissima. 8. Com'è stupido questo esercizio? Davvero, è stupidissimo. 9. Com'è difficile questa situazione? Davvero, è difficilissima. 10. Com'è onesto il fruttivendolo? Davvero, è onestissimo. Jay, you will now hear a dialogue between Rita and Mara. Listen very carefully, then answer the questions in your manual. Mara, Mara, dove sei andata ieri sera? Ho telefonato, ma non ti ho trovato a casa. Che caldo ieri sera. Siamo andati alla gelateria per un gelato e poi siamo andati al cinema. Almeno al cinema c'è l'aria condizionata. Cosa avete visto? Il film Terminator 2. Una vera americanata. Davvero? Andiamo anche noi a vederlo domenica. È lungo il film? È piuttosto lungo. Dura quasi 2 ore e mezzo. È noioso? No, anzi, tutt'altro. Ma Dio, che paura, che violenza. Siamo ritornati a casa tardi perché siamo rimasti a parlare a lungo del film.